sia sempre chi ha i guadagni pecuniari, forse un dio nel cassetto e a capofitto, nel lavoro mai precario, unità, rivoluzione. Agli italiani sempre bravi proletari, democristian comunisti ad interessi saltuari, che concedono le danze a ministri e funzionari, mentre intorno l'erba invecchia e la polvere dilaga. Questa è la vita da salvare, una vita in cui l'uomo è uguale al maiale, mi lascio il mondo da salteggiare. Costante del denaro collettivo, con l'accumulo pesante il capitale all'impresario, operante impunemente col mandato elettorale, forse solo largamente un problema di morale. E questa è